Io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Settembre 2008, a 42 anni e mezzo, all'improvviso, decido che non posso morire senza aver giocato una partita di rugby. Una sola, da old, da vecchio. Non so dove, non so con chi, ma una partita di rugby la devo giocare. Mi chiamo Francesco, ho 47 anni, sono nato e vivo a Roma e ho questa passione per il rugby. Adesso finalmente lo gioco da qualche anno, nonostante abbia questa età. Lunedì 9 settembre 2013, sono le 16:08 minuti, in diretta Radio 24. Dall'ultima volta che ci siamo sentiti mi sono successe un po' di cose. Ve le dico velocemente. In una giornata di mare in un'isola molto a sud dell'Italia, ho quasi tranciato con l'elica di un gommone un tubo in superficie sull'acqua che non so cosa portasse e non so cosa collegasse. Ho compiuto gli anni a luglio e quasi quasi mi sono ubriacato per la prima volta in una notte in un parco di Milano. Mi sono comprato, dopo anni che non ce li avevo, degli zoccoli del dottor Scholes, sapete, proprio quelli in legno. Li ho portati tutta l'estate. Ho passato 7 giorni a Cortona, un paesino in Toscana, e ho conosciuto un sacco di gente. Ho conosciuto Alessandro Baricco, Richard Gagliano, Roberto Saviano, Egli e le storie tese, eppure il batterista di Bruce Springsteen. Tre signori di Livorno, ai primi di agosto, li ho conosciuti in un bar, mi hanno fatto fare un giro in barca e mi hanno fatto conoscere il ponche alla livornese. Ho fatto un trasloco e nonostante il traslocatore 2 giorni prima mi abbia mollato su 2 piedi, sono riuscito a trovare un furgone 2 braccia oltre le mie e ho spostato una casa in un'altra. E per finire, tagliando delle patate, mi sono affettato un dito e nel cuore della notte un giovane e prestante chirurgo me lo ha riattaccato. Sembrano storie inventate e magari successe a persone diverse, invece è quello che mi è accaduto in questi 2 mesi. Questo però, tranquilli, è anche l'unico momento in cui racconterò i fatti miei, perché da oggi ricominciamo a raccontare le storie di chi ha voglia di raccontarle. Bentornati a Voi Siete Qui, comincia la terza stagione. E sono le 16:09 minuti, quasi 10 di questo lunedì di inizio settembre, che di fatto risuona un po' come un inizio d'anno per tutti quelli che ricominciano una stagione come sta accadendo a noi. Buongiorno a tutti, questa l'avete già sentita, è la terza stagione di questo programma, che già è un po' una novità per questo gruppo di lavoro, perché da quando siamo qui a Radio 24 più o meno ci siamo abituati ogni anno a cambiare formato, a raccontare cose diverse. Questo programma però, che ogni giorno racconta una storia diversa e che ogni giorno di fatto racconta una persona diversa, anche se in un piccolo episodio della sua vita, continua ad autoalimentarsi, continuano ad arrivare storie e quindi noi continuiamo a raccontarle. Se avete voglia di scriverle, se avete voglia anche voi di fermarvi 5 minuti e anche solo pensare che cosa vi è successo in questi 2 mesi, giugno, luglio, luglio, agosto, questi 2 sarebbero luglio e agosto, solo che ero partito con giugno e mi ero infilato in quel tunnel lì. 2 mesi, provate a immaginare quante cose vi sono successe. Se avete voglia di raccontarne una, voi siete qui, @radio24.it. Ci sono delle piccole cose nuove, tra l'altro le piccole cose nuove sono ad esempio il sistema che Paolino sta gestendo di là dal vetro, per cui vi dico che ho solo letto questa scritta: non dovrebbero esserci problemi, però è una serie di cose da fare in caso ci fossero dei problemi. La storia di oggi parla ovviamente di tutt'altro, non parla dei problemi tecnici, non parla di delle storie che sono successe quest'estate. Abbiamo scelto insieme a Tiziano una storia che in qualche modo è esemplare per cominciare una stagione. La storia di Francesco parla di rugby, è vero, cioè parla di uno che vuole giocare a rugby e comincia a farlo tardi, in età avanzata, oltre 42 anni, 42 anni e mezzo, come scrive lui. Però parla di altro soprattutto, parla di formare una squadra dal nulla, mettersi lì e decidere di creare un gruppo di lavoro oppure di creare un gruppo per andare in vacanza o creare una squadra sportiva, insomma qualsiasi sia la cosa che avete creato dal nulla insieme ad altri ovviamente, ma di cui siete stati in qualche modo i creatori, quelli che l'hanno fatta nascere, oggi è la puntata per voi. 349-238-6666. Adesso appunto parliamo di questo, parliamo di rugby e più tardi nella seconda parte, dopo la borsa, sentiamo un rugbista, uno di quelli che anche se non conoscete il rugby sapete chi è, ma prima la sua storia, la storia di Francesco. Anni 70. Mi è sempre piaciuto il rugby. Da quando ero ragazzino e lunedì sera a Telesport facevano vedere la sintesi della giornata di campionato. e immancabilmente mio padre diceva: ecco i matti. Anni 80. Rinunciavo a tutto per vedere le due o tre partite all'anno, quelle che la Rai trasmetteva. Mi ricordo i primi nomi: Gaetaniello, De Anna, Ghizzoni, Bona e il mio primo idolo, Massimo Mascioletti. Metteva a ferro e fuoco le difese di URSS, Marocco, Romania. Mi sarebbe piaciuto giocarci, ma abitavo lontano da tutti i campi di Roma. E poi anni 90. Cercavo riviste, almanacchi, giornali, reti locali venete. Feci venire l'antennista a casa perché non prendevo Antenne 2, il canale francese che trasmetteva il 5 Nazioni e i test match, quelli con gli All Blacks, all'epoca ancora misteriosi. Anni 2000, finalmente arriva il 6 Nazioni e la TV. E la scoperta che anche tu segui il rugby, in ufficio, nel quartiere. Potevo condividere con altri questa passione, parlarne per ore. Parlarne, certo che però, giocare è un'altra cosa. Mi sentivo quasi non autorizzato a fare commenti, a dare dei giudizi. Ma di questo sport mi piace il fatto che quando sei in campo, anche in allenamento, non puoi mentire a te stesso e ai compagni di squadra. Nel senso che puoi fare o non fare una cosa, ma non puoi far finta di farla. Settembre 2008. A 42 anni e mezzo, all'improvviso decido che non posso morire senza aver giocato una partita di rugby. Una sola, da old, da vecchio, ma non so dove, con chi, ma una partita di rugby la devo giocare. Sabato pomeriggio esco di casa, dico a mia moglie che vado a cercarmi uno sport da fare per l'inverno. Decido che farò questo giro, Centroconi, CUS Roma, Capitolina. Arrivo al Giulio Onesti, sul campo due decine di ragazzini che giocano e due banchetti. Il primo lo salto. Seduta al secondo c'è una signora energica. Piacere, Teresa. Mi dice che sì. Stanno formando una squadra old della Unione Sportiva Primavera. Mi dà il numero telefono di Maurizio Semplice, lo chiamo. Anche lui mi dice che la old è in costruzione. E mi dà a sua volta l'indirizzo email di chi se ne sta occupando. Si chiama Andrea Paris. Gli scrivo, mi risponde che non fa niente, se sono un neofita, di venire il mercoledì, che si comincia. E io vado. Paris non c'è. Però c'è Semplice con altri 4-5 ragazzi. Dalla seconda volta arriva un altro, Maurizio Serini. Qualche volta c'è Adamo, c'è Patrizio. Una volta viene anche Paris. Poi un mercoledì il diluvio. Quello del Tevere, quello che deve esondare i sacchi di sabbia al villaggio olimpico. Dal mercoledì successivo siamo io e Maurizio Serini. È metà novembre e fino a metà febbraio siamo noi due a fare giri di campo da soli, senza pallone, a parlare di rugby. A metà febbraio si aggiunge Ross e fino a giugno siamo noi tre, con un paio di apparizioni di qualche amico. Ci salutiamo, ci diamo appuntamento per metà settembre. Quando ci risentiamo, Maurizio è dubbioso, siamo troppo pochi. Convinco Maurizio a insistere, siamo ancora in tre. Passa una settimana, mi chiama il mio ex vicino di casa, mi dice che c'è un suo collega che viene due giorni da Padova. Gli piace il rugby, vorrebbe allenarsi. Si chiama Paolo, lo sento, dice che verrà. Infatti viene. E intuisco la delusione quando ci vede. Due pippe totali e un ex rugbista di 60 anni e passa. Un paio di settimane dopo però arriva Francesco Tuccio, siamo cinque, non mi pare vero. Intanto ho iscritto mia figlia al mini rugby, dove un sabato arrivano tre ragazzi per far provare i figli e sento uno che dice che invidia, sarebbe bello fare come loro. Gli dico che se vuole può provare, può farlo. Lui è Amedeo, gli altri due sono Andrea Negroni e Andrea Franco. Vengono ad allenarsi, si divertono, gli piace. Convinco Adamo a tornare. Paolo porta Cesare, Salvo Russo, arriva Andrea Marina, Amedeo porta altri ragazzi. La pausa natalizia e un paio di impraticabilità del campo non ci fanno disperare. Insomma, si può fare. A gennaio, col termometro sotto zero, dico: se stasera siamo in 14, mi faccio la doccia col tubo fuori dagli spogliatoi. Mi salvo, siamo in 13. Mi sembra un numero enorme, impensabile solo due mesi prima. Della mia squadra mi piace il tipo di gruppo che si è creato, perché non è affatto scontato che all'età che abbiamo noi, tra i 35 e i 50 anni, si crei dal nulla un gruppo di persone che hanno piacere di stare insieme e si frequentano sia in campo che anche fuori dal campo. Sabato 27 maggio 2010, centro Giulio Onesti, campo 1. Pippo fischia all'inizio di Autumn Old Rugby contro Triari. Paolo calcia il pallone. Sento le lacrime agli occhi. Ce l'ho fatta. Sto giocando a rugby. Avete mai provato a mettere in piedi una squadra? Non è una cosa facile, ma soprattutto non è una cosa che tutti sono in grado di fare. Perché mettere in piedi una squadra è diverso dal farne parte. È diverso dall'arrivare un bel giorno in un luogo in cui ci sono delle persone che già lavorano, giocano o semplicemente stanno insieme e chiedere di farne parte. No, mettere in piedi una squadra dal nulla è un atto creativo a tutti gli effetti. Ha bisogno di un briciolo di intuizione, di determinazione, di visione d'insieme e anche un po' di visionarietà. Creare una squadra è un mestiere diverso poi dal farne parte e quindi chi lo fa deve essere capace di fare entrambi i lavori. Oppure più di frequente succede che chi fa partire una squadra poi non ne sia anche parte attiva, ma semplicemente la gestisca e la metta in condizione di fare bene le cose che deve fare. Io non sono mai stato troppo bravo a creare squadre. Non ero nemmeno capace di scegliere i giocatori quando si giocava da ragazzini e si diceva tu con me, tu con lui. Però ho apprezzato sempre molto chi era in grado di farlo. Gente tipo Silvio Girardini, che a 13 anni, durante la preparazione del catechismo per la cerimonia della prima comunione, è stato capace di creare un gruppo di 7-8 comunicanti contestatori nei confronti dei metodi troppo severi della catechista, Ivana. Io ne facevo parte e anche se quella squadra non portò a nulla, ovviamente, quella fu la prima volta che percepii una forma di senso di appartenenza. Mi ricordo altri leader naturali, gente come Serena Pezzali, aveva 16 anni e in seconda liceo creò una lista di istituto e sbaragliò la concorrenza di tutte le altre liste, create da studenti molto più anziani, di quarta, quinta superiore. Non era bella, eppure lo sembrava. Aveva una voce da ranocchia in amore, ma quando arringava gli atri dei distaccamenti del liceo, la sua voce risuonava, dolce, ferma. Forse un po' me ne innamorai. Nonostante fossimo una decina intorno a lei, che pendevamo dalle sue labbra. Divenne rappresentante di istituto e l'anno dopo cambiò scuola, lasciandoci orfani. Ora è segretario di non so quale sezione di partito. Come loro ne ho conosciuti altri e sicuramente è capitato anche voi di incontrare persone che vi hanno preso e portato con loro, persone con qualcosa di scintillante che ci attira e ci fa riunire in cerchio intorno a loro. Creare una squadra dal nulla ha a che fare con queste persone e con la nostra voglia di metterci intorno a loro per perseguire un unico obiettivo. Creare una squadra è qualcosa che ripaga il nostro desiderio di solitudine e fa riscoprire quello che abbiamo in comune con tutte le persone, essere parte di qualcosa e contribuire alla sua esistenza. La squadra di Voi Siete Qui ricomincia per la terza stagione e ormai è rodata. Ma per fortuna non sono io a condurla e nemmeno Tiziano, perché c'è di là dal vetro e dietro la sua scrivania sempre Margherita Ina, che fa il lavoro di gestione di una squadra più complicato, quello silenzioso e quasi nascosto. E non sponsorizza la sua leadership, al contrario, fa credere a noi di gestire la cosa e poi se non ci fosse lei probabilmente invece delle 16 saremmo in onda alle 21 o alle 23 e probabilmente senza nemmeno sapere bene di cosa parliamo. Ecco perché ringrazio Francesco per averci inviato questa storia, perché parlare di squadra è il modo migliore per iniziare una stagione, una nuova stagione di programma con le persone che questo programma lo fanno. Ale, si comincia. Dirty ponds and the creatures of snow. (349) 238 6666 è sempre il numero per mandare gli sms, mentre voi siete qui @radio24.it per mandare le vostre storie, visto che ancora qualcuno mi chiede io ce l'ho una storia da raccontare ma non so come mandarla. È molto semplice, posta elettronica, una mail magari in allegato o nel corpo della mail, vale tutto, voi siete qui @radio24.it. ogni giorno raccontiamo una storia, ogni giorno raccontiamo qualcosa di una persona diversa. La puntata di oggi l'avete sentita, è la storia di Francesco, che parla, e l'abbiamo scelta mica a caso, sembrava scelta a caso come prima puntata, ma non è così. L'abbiamo scelta proprio perché parla di una cosa che non capita sempre e probabilmente non capita nemmeno a tutti da protagonista, cioè quella di creare una squadra dal nulla, partire da zero, avere voglia di fare un gruppo per qualsiasi motivo, un gruppo musicale, un gruppo di lavoro se lo devi fare, o un gruppo vacanza ad esempio, non di quelli che vanno in giro con la bandierina, ma semplicemente che hai voglia di andare in un posto e voglia di andarci con un po' di persone che conosci, e allora ti metti lì, mandi mail, chiami, fai le cene. Ecco, qualsiasi squadra voi abbiate formato dal nulla, un po' come è nata quella di Voi Siete Qui, oggi è la puntata per voi. 349-238-6666. Ad esempio Nicola scrive: estate del 2011, dal nulla o quasi, io e un manipolo di eroi, certo, perché poi è subito epica ovviamente, tiriamo insieme una squadra e ci iscriviamo ad un torneo di beach soccer, che Paolino conosce bene, non è il beach volley ma è calcio sulla sabbia più o meno, no? Che ha delle regole sue. D'estate su Sky Sport mandano dei video di beach soccer, credo sia una delle cose più noiose della terra. Vinto nulla, manco una partita, ma felicità immensa dopo il primo gol segnato alla squadra più forte del torneo. Ci chiamavamo legittimi impedimenti. La storia di Francesco è un'altra, non parla di calcio, non parla di beach soccer, parla di rugby. Pronto Francesco? Pronto. Buongiorno, come stai? Ciao, buongiorno a te. Dove ti trovi in questo momento, Francesco? Sono davanti al mio ufficio. Sei uscito per fare la telefonata? Sono uscito un attimo per parlare perché dentro ci sono grossi problemi di ricezione. In che zona di Roma stai? Sto vicino alla stazione Termini. Ok, senti Francesco, parliamo di rugby, diciamo, giusto? Sì. Ripercorriamo un attimo la storia, perché tu l'hai raccontata nei dettagli, però sostanzialmente tu ci hai messo un anno a creare una squadra, giusto? Sì, praticamente il primo anno ci siamo allenati in tre, abbiamo continuato a fare giri di campo finché con l'arrivo di un altro ragazzo padovano, con cui sono diventato poi grande amico nella vita oltre che sul campo, è scoccata la scintilla che ha fatto sì che la squadra crescesse fino a raggiungere numeri tali per cui diventasse possibile realizzare questo sogno di giocare una partita. Scusa Francesco, che tra l'altro fa ridere, nel senso che sembra che vi siete messi a fare giri di campo e aspettavate, sì, che arrivasse qualcuno, cioè, cioè mentre voi correvate intanto, ogni tanto si univa qualcuno, questa più o meno è l'immagine che vogliamo portare con noi. Diciamo che noi intanto, più o meno noi tre che facevamo i giri di campo, credo che l'abbiamo detto a tutta Roma se voleva aggregarsi. Poi piano piano sono arrivate le persone e poi ognuno portava un amico, ognuno portava un conoscente, alla fine finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora parliamo per chi proprio non ne sa nulla di rugby, peraltro io tra quelli. Quante persone ci vogliono per fare una squadra di rugby? Allora, in campo ne scendono 15, però considerato il tipo di gioco piuttosto usurante, presentarsi a una partita in 22-25 è cosa buona. Lo dico per chiunque non abbia mai giocato nemmeno una partita di calcetto, già solo trovare 5 persone per giocare il giovedì è un delirio, perché poi ognuno c'ha la propria vita, i propri casini, quindi trovare 20 persone per fare un campionato, giusto? Perché poi fate un campionato, insomma, non è facile. Noi a livello questo veterani solo partite amichevoli e tornei amichevoli, non esiste un campionato con le classifiche, insomma, okay, non è nello spirito del gioco. Ok, ma avete un calendario però, cioè che... Sì, ognuno si organizza le partite che vuole, volendo può giocare anche tutte le settimane. Voi quante volte vi allenate? Noi ci alleniamo una volta a settimana e vabbè, giochiamo non troppo spesso perché insomma apposta è abbastanza complesso comunque mettere insieme tutte le persone con tutti gli impegni di lavoro delle persone, facciamo diciamo un 6-7 partite l'anno. Tu a 42 anni, giusto, hai detto a un certo punto io devo giocare una partita rugby, come dire, c'è veramente tempo per tutti, insomma. Sì, infatti tanta gente come me è arrivata senza aver già giocato, insomma abbiamo parecchie persone che come me hanno questa passione ma non hanno mai avuto l'opportunità di metterla in pratica, anche chi è venuto a provare senza conoscerlo e si è trovato bene e si è fermato. Poi chiaramente ci sono anche parecchi giocatori che ci aiutano molto. Come ha reagito il corpo, il fisico? Insomma, diciamo abbastanza bene, meglio di quanto pensassi, però sicuramente rispetto a molti compagni un po' più giovani, anche più leggeri, sto un po' in difficoltà. Senti, ma male, delle volte in cui proprio sei uscito avevi male, ti è successo? Qualche contusione, per fortuna finora ancora niente di rotto. Guarda, più tardi nella seconda parte sentirò uno che ha smesso praticamente poco prima dei 40 anni. Tu hai cominciato poco dopo, lui ha smesso poco prima, che è Andrea Lo Cicero, che è appunto un rugbista che tutti quelli che hanno idea di cosa sia il rugby conoscono. E mi faceva ridere perché in una sorta di biografia scritta da lui, lui si presenta dicendo, facendo questo elenco: 55 punti in testa, 6 dita rotte, 4 costole, un gomito, spalle lussate a volontà. Insomma, questo, diciamo, dal punto di vista del rugby ho poche storie da raccontare, sicuramente non quante ce n'ha la persona che ha giocato veramente. Immagino, però l'idea che ci piaceva era quella di partire da zero, qualunque squadra fosse, e crearla. Francesco, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te, anche a voi. Ciao, alla prossima. Ciao. Grazie. Voi siete qui. C'è una foto tutti i giorni che accompagna la storia della puntata, ed è la foto, ed è un ritratto dell'autore di quella storia, quindi della puntata. La foto di oggi, quindi, è la foto di Francesco. La trovate sul sito di Radio 24, come al solito, alla pagina Voi siete qui. È alla sua scrivania. Questa è una delle fotografie fatte ad hoc per la puntata. Perché appunto o è uno che si fa fotografare abitualmente alla scrivania con una maglia da rugby, oppure voglio immaginare che abbia detto: aspetta che gli mando una bella foto contestualizzata. Margherita mi dice di no, non è fatta apposta per la puntata. Benissimo, è proprio così. Cioè, quindi Francesco è uno che sta seduto alla sua scrivania con la borsa aperta e una specie di Ficus Benjamin alle spalle, una roba che ricorda veramente il mega direttore generale, con questa maglietta di una squadra di rugby che non so, non credo sia la loro squadra, perché non, mi sembra troppo complessa e piena di sponsor per essere la sua squadra, però ha una bella maglia e ha la faccia di quell'attore americano che faceva sempre la parte del cattivo nei film di 007. A gennaio, col termometro sotto zero, dico: se stasera siamo in 14 mi faccio la doccia col tubo fuori dagli spogliatoi. Mi salvo. Siamo in 13. Mi sembra un numero enorme, impensabile solo 2 mesi prima. Alessandra De Luca non può mancare quest'anno in una versione diversa. Abbiamo deciso di farle riprendere un pezzettino della storia, che in questa seconda parte sembra passare in secondo piano, che c'è di mezzo la borsa, andiamo altrove, facciamo altre chiacchiere. E questo in realtà è il cuore di questa puntata, ed è che un tizio di 42 anni decide di mettere su una squadra, nella fattispecie di rugby, e ce la fa, dopo un anno a correre in due al freddo in un campo. 349-238-6666. Ci sono molti che provano a giocare a rugby, ci sono molti che hanno fatto una squadra. Ad esempio, ciao Matteo, mi chiamo Gabriele, con un gruppo di amici 8 anni fa abbiamo creato una squadra dal nulla di Dragon Ball è un'altra roba, non mi ricordo più cosa sia, ma Dragon Boat sul lago di Garda, che sono quelli con le barche da dragoni, ovviamente. Dragon Boat. Io, Natale, Daniele, Salvio e Giuseppe, nel giro di poco più di un mese abbiamo creato una squadra che ha realizzato una sagra per 1000 persone a Gesso, provincia di Messina. Un successone. Giovanni, vorrei sapere cosa c'era in questa sagra, Giovanni. E poi ancora, ce n'è una bellissima, eccolo qua. La nostra non è una squadra sportiva, ma di genitori attori, chiamati geni attori. Mi vengono già un po' i brividi, ma andiamo avanti. Ci ha messo insieme un grande appassionato di teatro. Tutti alle prime armi, intorno alla quarantina, con i figli dello stesso asilo, facciamo teatro per bambini e abbiamo avuto un gran successo con Cenerentola. E siamo pronti per Pinocchio. Grazie ad Ascanio, Dean da Azzano Decimo. Dean, secondo me, questa attività, che è nobilissima, diciamo, i figli di solito reagiscono in 3 modi diversi in base all'età a una cosa del genere. All'inizio sono felici, da bambini sono felicissimi che i genitori recitino. Quando diventano un po' grandi e torna ai 15 cominciano a dire: ah, mio padre fa sta roba, che recita, è una roba, i geni attori si chiama. E poi quando invecchiano lentamente dicono: però pensa che carini, mio papà si vestiva, faceva il teatro, è tutto per me. 349-238-6666, torniamo al tema della puntata, che era sì creare una squadra, ma era creare una squadra di rugby. E quando abbiamo pensato a qualcuno con cui parlare di rugby, sostanzialmente io e Tiziano Bonini, che di nulla sappiamo di rugby, abbiamo detto: ma scusa, sentiamo uno che conosciamo tutti, Andrea Lo Cicero. Pronto, Andrea? Ciao, buongiorno, ciao, come stai? Buongiorno, bene, voi come state? Noi benone, grazie per essere qui innanzitutto. Grazie, Andrea. Grazie a voi, grazie. Quanti mesi sono che non tocchi una palla da rugby? Sono circa 3 mesi e come sto? Male. ti sei fatto la domanda, come un marzullo qualunque, domanda e risposta. Ma non giochi nemmeno, fai delle partitelle tra amici, no? No, per adesso ho detto devo disintossicarmi anche perché ne avevo il bisogno, insomma. Ho fatto un Sei Nazioni novembre, un campionato, Coppe Europee, l'anno scorso è stato veramente tanto, quindi era giusto, l'anno scorso, oramai è un po' di anni, certo. Però l'anno scorso in particolar modo tante emozioni, il fatto che volevo smettere e che cosa che ho fatto, insomma ho dovuto recuperare. Ricordo che Andrea Lo Cicero ha fatto qualcosa tipo 103 partite nella nazionale italiana, un numero incredibile di partite invece nei club, però Andrea, prima ho letto un pezzo della tua biografia in cui elencavi le cose che ti sei rotto, no? Punti in testa, dita rotte, non avevo finito, spalle lussate, clavicole fratturate, distorsione varia alle gambe, uscite dal campo per infortunio nessuna. Cioè, cosa significa? Che tu ti accorgevi di esserti fatto male dopo? Ci sono state alcune situazioni che c'era il dolore, però non mi ha portato quel campanello d'allarme che mi dice: sai, ti sei fatto male, seriamente esci. No, la soglia del dolore mia era ed è abbastanza alta, quindi questo mi ha permesso di giocare, però insomma ho anche molto rischiato, quindi certo. Non lo auguro e non lo, insomma, a nessuno di trovarsi in una condizione del genere, perché non si deve scherzare. Andrea, senti, per quelli come me che seguono il rugby, in realtà dagli ultimi anni, da quando è arrivato nelle TV italiane, da quando trasmettono il Sei Nazioni sostanzialmente, eccetera eccetera, e quindi conoscono il rugby in quel modo, tu invece lo vivi da ormai quanto? Più di oltre 20 anni? Ho fatto dal 98 al 2013 solo di nazionale, e prima ho iniziato a giocare con la squadra dell'Amatori Catania, quindi Cus Catania. Quindi insomma, un bel po' di anni. Sono tanti. La sensazione, ti dicevo, per quelli che lo conoscono poco, e quindi è sicuramente sbagliata, è che comunque ci si dia delle gran botte in campo, no? Che non è così sbagliata come sensazione, immagino. Ma non è una... diciamo che sono colpi duri, però su questi colpi duri c'è molta lealtà. Questo si vede. È uno sport dove col fisico veramente potresti fare del male, però ti rendi conto che sono persone che hanno la testa attaccata nel punto giusto, quindi cerebralmente funziona tutto, e quindi utilizzano questo fisico soltanto per lo sport e non per altro, quindi questa è chiarissimo, la grande parte sana di questo sport. Però a te non è mai venuta voglia, tipo 5 minuti prima, un'ora prima della partita, dire: no, oggi proprio non ce la faccio, entrare a pigliare appunto? È normale, quello capita, e capita molto spesso, però poi insomma c'hai i compagni, insomma si inizia a sentire il clima partita, e là cambia come un relè, ti fa entrare in un'altra dimensione. Quindi insomma la squadra dà una mano in questo, no? Cioè il fatto di fare gruppo, chiaro. Il gruppo è quello che aiuta tutti, quello che forse noi italiani abbiamo dimenticato. L'unione fa la forza, e non a caso una squadra di rugby è fatta di uomini che tutti insieme lottano per arrivare a un risultato. Senti Andrea, invece una cosa che vista sempre da fuori, quelli che fanno altri sport di squadra, quando parlano del rugby, notano questa sorta di sensazione di superiorità che hanno i rugbisti nei confronti di quelli che fanno altri sport, proprio per quello che dicevi, per questa grande lealtà, per questo grande spirito di gruppo. È così o è solo una sensazione? No, è una sensazione. Infatti se tu vedi nei nostri Twitter, abbiamo tanti amici sportivi di altre squadre, e noi, grazie, insomma, tutti insieme abbiamo fatto conoscere sia il rugby che altri sport, perché al Centro Coni trovi tutti gli atleti internazionali, noi andiamo a vedere i loro allenamenti, loro vengono a vedere il nostro, okay, quindi... è venuta la nazionale pallanuoto, quindi insomma noi non ce la teniamo assolutamente. Certo, Andrea, e poi ti devo salutare, quindi al volo la domanda è: dopo tutta una vita di rugby, e adesso? E adesso sono disoccupato e c'ho qualcuno che mi sta iniziando a pedinare perché sono tornato in Italia. No, scherzi a parte, sono disoccupato, ma spero per poco. Insomma, il nostro paese sta vivendo un momento di difficoltà, io sto cercando di reinventarmi una vita. Ho istituito un'azienda agricola, una onlus, si chiama Terra dei Bambini, e si occupa di disabilità, con gli asini, sono asini ragusani, produzione di latte d'asina, fattoria didattica e trekking con l'asino. Quindi chiunque volesse aiutarmi... il sito qual è? Ripetiamo il sito. Può scrivere al sito mio www.andrealocicero.com, chiedere qualsiasi informazione per sostenere la ONLUS oppure potermi aiutare o ammirare assolutamente quello che faccio. Grazie ancora ad Andrea Locicero, che è stato un grande rugbista e ha un grande futuro davanti. Ciao Andrea. Me lo auguro, grazie. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Grazie mille, ciao. Grazie anche a te. 349-238-6666, abbiamo finito, continuate a scrivere, continuate a mandare i racconti. Voi siete qui, @radio24.it, abbiamo iniziato e abbiamo una grande stagione davanti. La storia di oggi era la storia di Francesco e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Mauro, vivo nella provincia di Vercelli, la storia di domani è la mia e riguarda un'esperienza avuta qualche anno fa durante il servizio militare, precisamente riguarda una mia diserzione durata una sola notte. Questa è la mia storia e io sono qui.